Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andiamo a Roma, dove lo scorso ottobre è stata inaugurata, recuperando un capannone in disuso, la Casa dei Raccontastorie. Siamo nel filone del cosiddetto citizen journalism, cioè giornalismo civile. Cittadini che diventano reporter, portavoce di situazioni di disagio o di difficoltà sociale. Ma c'è ancora qualcosa di più nell'iniziativa di cui vi vogliamo parlare stasera. Ci racconta tutto Chiara Albicocco, che ha intervistato Antonio Amendola, fondatore e presidente di Shoot for Change, la onlus all'origine di tutto il progetto. Sentiamo. L'iniziativa è nata in maniera più o meno inaspettata, perché ho cominciato semplicemente a bloggare. Ecco, a bloggare significa che ha aperto un blog. Sì, esatto. Okay. Ho cominciato, diciamo così, è stato un diario quotidiano del mio rapporto con la fotografia, essendo una vecchia passione alla quale ho unito una passione per i social media, per le nuove tecnologie, e improvvisamente mi sono girato e ho trovato tantissima gente che mi stava seguendo. Questo mi ha fatto capire che tantissime persone in giro per il mondo hanno voglia di scendere per strada e raccontare le storie. Raccontare storie è importante, perché se raccontare storie nella nostra concezione significa aprire gli occhi, guardarsi intorno sulla realtà che ci circonda e cercare di raccontare e di farle conoscere sui social media tutte quelle piccole o grandi storie che non sono considerate normalmente remunerative dall'informazione tradizionale, e quindi, non venendo considerate remunerative, non vengono conosciute. Se non vengono conosciute, molto spesso non riescono, se vuole, a dispiegare quegli effetti e quei meccanismi, anche virali a volte, di emulazione creativa in giro per il mondo. Quanto mai impattanti sono ovviamente le immagini fatte con macchine fotografiche professionali, ma anche con i moderni strumenti che abbiamo praticamente a disposizione tutti i giorni, 24 ore su 24. È proprio così, e probabilmente noi ci troviamo nel momento storico ideale per riallineare tutti i linguaggi della comunicazione visuale. Tipicamente stiamo riallineando il linguaggio visuale della fotografia tradizionale, unito alla scrittura dei blog, dei social media, unito ai video, quindi tramite la multimedialità, unito alla propagazione virale del raccontare storie attraverso i social network, attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso Instagram, Pinterest. Quello che stiamo sperimentando è quello che io ho coniato come crowd photography, fotografia crowd, condivisa. Io ritengo che sia possibile adesso effettuare un racconto sociale, orizzontale, democratico, che alla fine si sta dimostrando essere anche una sorta, se vuole, di controllo sociale, perché nel momento in cui si fanno delle chiamate, come facciamo noi molto spesso, delle chiamate alle armi fotografiche, in senso metaforico, la gente effettua questo racconto e, pubblicandolo sui nostri mezzi di comunicazione, teniamo alta l'attenzione e sensibilizziamo anche le istituzioni a intervenire, a fare qualcosa per trovare una soluzione. È emblematico un accordo che abbiamo raggiunto pochi giorni fa con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza a Roma, Vincenzo Spadafora. Lui ci ha chiesto di andare in giro per l'Italia e segnalargli periodicamente le situazioni di disagio, quelle che normalmente, come ha detto giustamente lei, non vengono facilmente conosciute dall'informazione mainstream, ma esistono. Il Garante se ne farà carico e cercherà di trovare lui delle soluzioni in base alle nostre segnalazioni. Ecco, prima abbiamo detto che questo luogo non luogo che lei ha raccontato in rete, in realtà ora ha trovato posto in città, precisamente a Roma, in centro. Come mai avete dato, come dire, uno spazio, quattro mura a questa idea? Perché eravamo cresciuti talmente tanto che stavamo probabilmente rischiando di perdere un po' la bussola. Allora abbiamo deciso di rallentare un attimo e dare fisicità appunto al nostro non luogo, al nostro movimento, alla nostra idea di crowd photography, di Shoot for Change. Abbiamo creato questo luogo, questo vecchio capannone industriale riadattato per i nostri scopi. L'abbiamo battezzato la Casa dei Raccontastorie, perché questo vuole essere. Sarà un posto dove la gente dovrà venire non a vedere quanto siamo bravi noi, ma a raccontarci quanto sono bravi loro, con le loro idee, con le loro idee di progetti e di storie da raccontare. E soprattutto sarà un posto dove mettere in piedi non solo sperimentazioni dei nuovi linguaggi della comunicazione visuale, anche multimediale ed evolutiva attuale, ma soprattutto formare gratuitamente coloro che non se lo possono permettere. Perché noi crediamo, non siamo naif, non andiamo in giro dicendo che si può cambiare il mondo con una fotografia. Noi siamo convinti che una vera rivoluzione sociale comincia con l'educazione. Quindi noi formeremo e daremo una chance di formazione, una chance educativa a rifugiati, chiedenti asilo, italiani in difficoltà, ragazzi anche dalle periferie, tutti coloro che magari hanno una tendenza alla creatività, hanno magari anche un grande talento ma non riescono a dispiegarlo perché non hanno i mezzi. Grazie Chiara Albicocco, grazie Antonio Amendola, da Maurizio Melis una buona serata, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.